Con Emilio Gennazzini per parlare della 25esima edizione di Scenarte, Festival internazionale di teatro urbano dal 24 al 31 agosto 2019 all'Isola Farnese, a Cesano di Roma e al Giardino degli Aranci. Emilio, ben trovato. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. Ci racconti? Sì, allora, intanto volevo specificarti, sono 25 edizioni del Festival Internazionale del Teatro Urbano, ma è la prima di Scenarte perché ogni gruppo di anni cambio il titolo in relazione alle proposte che ci sono, in relazione al momento, eccetera. Allora, io e la mia compagnia, Abraxa Teatro, tra l'altro è una delle 5 compagnie riconosciute, finanziate dal MIBACT come teatro di strada, abbiamo questa vocazione per il teatro urbano. Sinteticamente ti dico solo che c'è un libro anche adottato dall'università che si intitola L'avventura del teatro urbano, ricerca e sperimentazione di Abraxa Teatro, perché il primo spettacolo adesso si chiamerebbe in un'altra maniera, insomma, noi abbiamo fatto spettacoli nelle metropolitane di Roma 1989, adesso si chiamerebbe Flash Mob, ma sono spettacoli di teatro fatti nei luoghi urbani. Però il festival è nato per prendere delle piazze molto importanti di Roma, come Piazza di Spagna, come Campo dei Fiori, e poi si è fermato al Giardino degli Aranci perché per noi è sempre risultato un cuore, un pulsante di cultura, di stare bene con le persone, di energie assolutamente positive. Però per quanto riguarda l'edizione di quest'anno, allora noi abbiamo, sono 5 giornate che facciamo in 15° municipio, perché abbiamo scelto anche di fare un omaggio alla periferia di Roma. Quindi saremo 24, 25, 26 e 28 a Isola Farnese, a Piazza della Colonnetta, un borgo assolutamente affascinante del 15° municipio di Roma, dove c'è l'entrata anche del parco di Veio. E una giornata il 27 di agosto saremo invece a Cesano di Roma, che è appunto lì accanto, sempre in 15° municipio. Poi invece dal 29 al 31, e torniamo in quello che ti ho definito appunto il nostro cuore, al Giardino degli Aranci, e presenteremo allora una serie di performance importanti. Ospitiamo per esempio Sergio Bini in arte Boostrick, che presenterà uno spettacolo dedicato a Pinocchio. Abraxa Teatro presenterà la prima del suo nuovo spettacolo all'aperto e anche per il chiuso, che si intitola Senza di lui, la leggenda di Don Chisciotte. Quindi abbiamo uno spettacolo su Don Chisciotte, senza Don Chisciotte, quindi è un progetto scenico originale. E poi abbiamo una sezione importante, perché mi è veramente piaciuta molto idearla e promuoverla, una sezione che si intitola Sguardi dalla capitale, cioè ho riunito gruppi di teatro che hanno anche un'etica molto simile alla nostra, o anche semplici artisti, che presenteranno delle brevi performance, 10-15 minuti, però specifico sul territorio di un municipio. Quindi noi presenteremo performance tutti dedicati a tutti i 15 municipi. In più, un gruppo che viene da Bologna ne presenterà uno su Roma in assoluto. Questo grosso modo. Però abbiamo l'apporto dell'ambasciata indonesiana, perché ci sarà uno spettacolo di teatro danza balinese, che sarà comunque una prima su Roma. La persona, Enrico Masseroli, che è la persona più importante in Italia per quanto riguarda il teatro danza balinese, farà anche nel pomeriggio un laboratorio per i bambini, quindi ci sarà spazio per i laboratori anche, anziani, bambini. E la Banca Etica presenterà un incontro sull'uso, sul modo di fare finanza etica il 29, per esempio alle 18. Allora, diciamo che noi abbiamo a Giardino degli Aranci degli incontri alle 18 fino alle 19, e poi abbiamo spettacoli 21 e 22. finiremo con una passeggiata notturna a cura di Rene Rinaldi che partirà alle 22:30 circa dal Giardino degli Aranci e ci farà vedere bellezze di testaccio notturne, questo il 31 agosto. Chiaramente i nostri spettacoli sono sui nostri social, sul sito, su Facebook, su Instagram, abbiamo tutto il programma molto dettagliato. Allora, i riferimenti ce li hai dati, ricordiamo Scenarte, 25esima edizione del Festival Internazionale di Teatro Urbano, dal 24 al 31 di agosto ad Isola Farnese, Cesano di Roma e Giardino degli Aranci. Un saluto e un ringraziamento al direttore Emilio Gennazzini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Dire che posso specificare solo che tutti i social sono www.abraxa.it, poi Abraxa Teatro Facebook e Abraxa Teatro Instagram. Grazie, Perfetto. grazie a te, grazie a voi. Ciao. Buona serata.